Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati alla nostra trasmissione Dietro la notizia. Oggi parliamo ancora purtroppo di grande crisi, ma ne parliamo per una iniziativa particolare, un'iniziativa del Sole 24 Ore. Abbiamo con noi il direttore Ferruccio De Bortoli, che salutiamo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'iniziativa è un libro, un instant book, che uscirà domani appunto con il Sole 24 Ore, con un piccolo supplemento, 4,90 mi sembra. La grande crisi, domande e risposte, in pratica tutto quello che volete sapere sulla grande crisi. Ecco, qualcosa potremmo dirvi anche noi, chiamate pure all'800 24 00 24, cercheremo di dare delle risposte. Questo libro è proprio costruito sulle domande e risposte, su tutto quello che, di cui si è parlato in questi giorni, si è parlato sul giornale, si è parlato a Radio 24, si è parlato anche perché è una grande crisi che ha creato molte preoccupazioni nei risparmiatori. Allora De Bortoli, questo libro è un instant book, come è nato, come siete riusciti a realizzarlo? Innanzitutto tiene conto di tutte le inchieste, di tutti gli approfondimenti e di tutte le analisi che sono state fatte dai giornalisti e dai collaboratori del Sole 24 Ore. E innanzitutto bisogna sottolineare questo aspetto, che la grande crisi che ha investito l'economia e la finanza mondiali partono da un paradosso di fondo, cioè ancora adesso le grandi istituzioni non sanno qual è la vastità e la profondità della crisi, non sanno dove sono finiti tutti questi titoli tossici di cui abbiamo parlato. Ovviamente non sappiamo ancora quale sarà l'effetto sull'economia reale e naturalmente abbiamo cercato di capire come nella più grande economia del mondo sia stato sottovalutato il tema dei mutui subprime, come la cartolarizzazione di quei titoli, che ha avuto anche degli aspetti positivi perché ha diminuito il rischio, ha consentito per esempio a 4 americani su 5 che prima non potevano permettersi un'abitazione di potersela comprare. Peccato che 1 su 5 non abbia pagato il proprio mutuo, che a un certo momento si sia accorto che il valore del proprio mutuo era nettamente superiore al valore della casa che doveva acquistare, che a un certo momento questo piccolo effetto valanga poi si sia trasferito in tutte le altre parti del mondo, si sia trasferito ad altre attività finanziarie, abbia fatto cadere i valori, abbia costretto molti a svendere, cosa che peraltro avviene anche in questi giorni sui mercati con gli hedge fund, che sono costretti a vendere pacchetti di azioni di cui hanno possesso. Insomma, si è creata una grande illusione finanziaria di cui adesso stiamo pagando il prezzo, anche perché gran parte di queste attività sono avvenute fuori mercato e fuori bilancio, quindi in totale assenza di trasparenza. Ecco, quindi siamo di fronte a una crisi che non ha dei contorni certi, e quindi abbiamo visto anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, come ogni giorno riservava delle sorprese. I mercati in questo periodo sono molto volatili, però appunto i risparmiatori devono anche avere dei punti fermi, devono sapere in fondo con precisione, pur se il futuro nessuno può prevederlo, in quale direzione andare. Allora questo libro è costituito proprio da un'analisi della situazione, un'analisi degli avvenimenti, una cronistoria degli avvenimenti, ma anche di consigli utili in fondo possiamo dire per sopravvivere, ma soprattutto per avere fiducia, per recuperare quella fiducia perduta, una fiducia che è necessaria. Il mercato è qualcosa di fondamentale. In questo senso questo libro vuole essere anche un modo per ritornare ad avere fiducia nel mercato? Questo assolutamente sì, nel senso che il libro non è soltanto un'inchiesta, un'analisi di tutto ciò che è avvenuto, è anche un libro utile per cercare di orientarsi nella gestione dei propri risparmi, ma anche per guardare, diciamo, a quella parte dell'economia che è ancora sana. Fortunatamente nel nostro paese noi abbiamo una parte di economia reale che è sana, va bene, che è percentualmente più alta di quello che avviene in altri paesi, e probabilmente ci consente di guardare sì con preoccupazione a quello che potrà accadere nei prossimi mesi, ma anche con una dose di fiducia che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Ecco, quindi una dose di fiducia che dobbiamo ricercare conoscendo meglio i problemi, cercando di approfondire. Ricordo questo libro, La grande crisi, sarà domani in edicola, ma non solo domani, cioè da domani con il Sole 24 Ore, 4,90, per chi vuole appunto approfondire i temi della crisi, cosa che stiamo facendo e faremo ancora con voi. Avrei una telefonata, ringrazio Andrea da Vicenza, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Io volevo fare una domanda. Adesso ci sono questi aiuti di Stato per le ditte automobilistiche, eccetera. E mi sono chiesto perché questo non è stato fatto anche per le ditte piccole e medie artigianali, come il tessile, la ceramica e il settore orafo. Ormai da 10 anni che questi settori sono in crisi e non c'è stato dato un aiuto, nessuno ci ha ascoltato, ci hanno solo detto arrangiatevi e un calcio nel sedere. Perché due pesi, due misure? Perché le grandi ditte hanno sempre bisogno di un aiuto di Stato e quelle piccole e medie che, me lo lasci dire, fanno girare questa baracca che si chiama Italia, no. Ma la ringrazio della sua domanda. Indubbiamente, come ha detto lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi, fino a ieri gli aiuti di Stato erano proibiti, adesso si può discuterne e vedremo se sarà necessario intervenire. Quindi per ora si parla di aiuti non tanto diretti per sostenere le imprese quanto di prestiti alle banche per favorire il ritorno alla normalità e la normale circolarità del sistema finanziario. Ma su questo vorrei sentire anche il direttore De Bortoli. Ma purtroppo anche per le banche è successa una cosa analoga, cioè più si è grossi, più che si creano problemi all'economia e a un certo momento si è talmente grossi che non si può fallire, insomma. E naturalmente è quello che è accaduto con le banche, lo stesso intervento statale nelle banche crea una distorsione nel mercato, perché a un certo momento finisce per premiare coloro che sono stati più azzardati, che hanno nascosto dei rischi, che hanno intrapreso attività assolutamente rischiose fuori bilancio, e naturalmente un intervento dello Stato in quelle banche che si sono comportate in questo modo, che hanno creato il problema, crea una distorsione rispetto invece magari ai piccoli istituti che invece si sono comportati assolutamente bene, che non hanno sfruttato l'effetto leva, che non si sono indebitati troppo rispetto al proprio capitale, rispetto al proprio patrimonio netto. Lo stesso avviene per le industrie. Ora io credo che, insomma, questa ondata di revisionismo sull'economia, questo ritorno, vada in qualche modo affrontata con una certa calma. Bisogna vedere un attimo i specifici casi nazionali. È ovvio che ci sono delle grandi industrie dalle quali dipende ovviamente il tono generale di un'economia, e quindi probabilmente i governi si orienteranno nel affrontare strumenti che possano aiutare queste industrie ad uscire da una crisi di consumi. E per esempio nel caso dell'industria automobilistica è importante per esempio vedere quello che succede negli Stati Uniti, vedere che gran parte, diciamo, delle vendite di auto sono bloccate dal fatto che gli strumenti finanziari che le rendono possibili sono in qualche modo in crisi. Però bisognerà anche vedere, questo è stato detto anche a livello comunitario, una serie di interventi per le piccole e medie imprese. Anzi, devo dire che noi ci batteremo anche perché questo avvenga, cioè perché poi dopo l'economia italiana, se riesce a superare bene questa fase, lo deve soprattutto le piccole e medie imprese, lo deve i professionisti, gli artigiani, i commercianti, a tutto quel tessuto di piccola ma grande economia. Sì, in fondo che rende forte l'economia italiana, anche se l'economia italiana si trova a lottare con un'economia globale che ha i suoi problemi e quindi deve fare i conti con l'economia globale, però sia a livello di sistema bancario sia a livello di sistema industriale, indubbiamente l'Italia ha qualche carta in più da giocare e deve giocarla bene. Un'altra telefonata, Oreste da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io mi ponevo questa domanda. Visto che adesso si abbandona l'economia di mercato e si arriva a un'economia un po' sociale, quindi si aiutano questi grossi istituti che sono andati in difficoltà. Ma mi domando, ma per noi cittadino, per il consumatore finale, visto che siamo noi comunque ad aiutare queste banche, è possibile che non ci sia un ritorno? Voglio dire, possibile che lo Stato non si preoccupi di dire, non so, vi stiamo aiutando banche, abbassate lo spread, fate qualcosa anche per chi vi sta dando in questo momento una mano? Ecco, mi faccio questo tipo di domanda. Grazie. Sì, la ringrazio. Indubbiamente l'intervento nelle banche non dovrebbe essere un door dash, dovrebbe essere tale da favorire il funzionamento poi dei meccanismi di mercato, e peraltro si è visto negli ultimi giorni che gli stessi tassi di interesse, lo stesso Euribor, che è il tasso di riferimento per i mutui, grazie a questa maggiore fiducia nelle banche è sceso di qualche punto. Ma Ferruccio De Bortoli. Ma io credo che, insomma, questo, diciamo, lo scopo degli interventi negli istituti di credito è quello naturalmente di arrestare un effetto a catena che potrebbe avere delle conseguenze anche disastrose sull'economia reale, quindi diciamo sul reddito reale di ciascuno di noi. Quindi è assolutamente comprensibile. Io andrei molto piano su questo ritorno all'economia sociale di mercato, perché insomma, voglio dire, va in qualche modo valutato caso per caso, bisogna essere estremamente prudenti. È chiaro che gli interventi pubblici mirano a fare in modo che non ci sia una stretta creditizia per le imprese e soprattutto che ci sia un effetto positivo per coloro che si sono indebitati con le banche, quindi probabilmente anche per i singoli risparmiatori, soprattutto per tutti coloro che hanno contratto un mutuo. Ovviamente cosa succede? Succede che per il momento l'abbassamento dei tassi è lento e insoddisfacente rispetto allo sforzo iniziale di cui stiamo parlando. C'è una domanda con un SMS per il direttore del Sole 24 Ore. Si parla tutti i giorni, cioè tutti i giorni, quando le borse calano, di un certo numero di miliardi che sono bruciati. È giusto usare questa espressione? Perché in fondo poi magari si parla meno di quando le borse salgono che i miliardi si creano allora a questo punto. Forse il termine bruciati, mille miliardi, può creare un'impressione che distorce la realtà. Beh, insomma, noi non lo usiamo spesso, anzi non lo usiamo mai. Bisogna dire che ovviamente è tutto un guadagno teorico, sia quando si alzano e è una perdita teorica anche quando poi i listini flettono, insomma. Naturalmente è un modo di dire, però insomma si tratta ovviamente di una ricchezza che è stimata in quel momento, insomma, ecco. E naturalmente oggi stiamo parlando di cali consistenti che sono avvenuti in questi ultimi mesi, e la percentuale di questi cali è francamente preoccupante. Naturalmente, se poi andiamo a guardare i veri valori delle aziende, scopriamo che ci sono delle aziende che capitalizzano in borsa molto meno della liquidità che hanno in cassa, e quindi questo ha poi suscitato tutto il tema della possibilità, anzi del rischio, che alcuni dei nostri gioielli industriali possono essere scalati, per esempio da fondi sovrani arabi o asiatici. Grazie mille, ci fermiamo un attimo per le notizie del traffico. Che strada fa? Il traffico è molto sostenuto in questo momento sulle autostrade, in particolare nell'area di Bologna, sulla 14 Adriatica, in concomitanza con un'importante manifestazione fieristica, e c'è anche un incidente da poco avvenuto fra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione dell'Autosole. Per quanto riguarda le condizioni meteo, i banchi di nebbia si stanno diradando, ma la visibilità rimane particolarmente scarsa nella zona di Udine, prestate quindi attenzione. Ricordiamo che oggi sarà una giornata di sciopero e manifestazioni a livello nazionale, sono a rischio tutti i trasporti. Mezzi pubblici non garantiti con modalità diverse da città a città, a Roma fino alle 16.30, a Milano mezzi di superficie a rischio fino alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio, mentre i collegamenti con la metropolitana non saranno garantiti a partire dalle 18. A Genova collegamenti a rischio dalle 9 alle 17 e poi a Trieste dalle 9 alle 13 e dalle 16 in poi. Ci saranno inoltre alcune manifestazioni con cortei, la principale è a Roma, con un corteo che dovrebbe partire da Piazza della Repubblica intorno alle 10, altra grossa manifestazione prevista a Milano con partenza da Largo Cairoli. Possibili disagi infine anche per il settore aereo dalle 10 alle 18, inoltre è previsto un presidio al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa da parte dei lavoratori della società che gestisce gli aeroporti milanesi. E con questo è tutto, noi ci risentiamo tra circa un'ora. Salve, vorrei noleggiare un furgone. Molto bene. Lei ha la patente? Sì. La da molto? Sì. Lei lavora? Sì. Lo fa da molto? Abbastanza. Quanti anni ha? 35. Gli ha da molto? Un po'. Lei è maschio? Certo. Lo è da molto? La mia banca è differente. Lo è da molto? Banca di Credito Cooperativo. La banca che da 125 anni rende la vita più facile anche a te. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Stiamo parlando col direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, del libro La Grande Crisi, domande e risposte, che sarà domani allegato appunto al Sole 24 Ore. Abbiamo una telefonata, Roberto da Salerno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io voglio portare un'esperienza. Io sono un bancario e lavoro da circa 10 anni come responsabile di un portafoglio crediti impresa, cioè di piccole e medie imprese che fatturano dai 2 milioni e mezzo fino a 150 milioni di euro. Prima di tutto vorrei dire questo. Oramai questa spaventosa crisi finanziaria ovviamente sta portando una pressione sugli spread in una maniera esageratissima. Oramai tutte le banche stanno portando avanti un repricing su tutti i clienti, che è qualcosa di spaventoso. Allora io mi volevo riallacciare a quello che diceva il direttore. O noi abbiamo un tessuto industriale di piccole e medie imprese che però da un lato ci consente di avere un vantaggio competitivo, ma dall'altro abbiamo una fragilità strutturale, una vulnerabilità elevatissima, perché c'è un livello di capitalizzazione scarso o comunque modesto. Allora a questo punto io direi, visto e considerato che tutte le iniezioni di liquidità, perché parliamoci chiaro, tutte le iniezioni di liquidità fatte nel sistema sono state divorate dalle banche per coprire tutta una serie di deficit accumulati o comunque di coprire posizioni che oramai sull'interbancario non erano più in grado di scaricare. Oggi non si quota più nulla sull'interbancario. Si è ridotto, diciamo, l'Euribor di basis point, cioè quindi sì, vuoi concludere per favore? Si sono ridotti gli spread, si sono ridotti di basis point, cioè di punti di centesimi di punti sostanzialmente. Ma la cosa più grave è che oggi le aziende, se devono indebitarsi e devono fare o devono consolidare o devono comunque fare le normali operazioni di fabbisogno del circolante, scontano degli spread notevoli, che ovviamente... Ecco, la ringrazio, la sua osservazione è certamente, io purtroppo devo interromperla, il tempo è molto limitato, lei sottolinea appunto le difficoltà anche del sistema produttivo, delle piccole e medie imprese di fronte a questa crisi finanziaria. La speranza è che questa crisi finanziaria possa evolversi positivamente nei prossimi mesi sul fronte del sistema delle piccole e medie imprese. Ferruccio De Bortoli. Ma questo, diciamo, che è un discorso che si è aperto e dovrà essere continuato in questi giorni, nel senso che c'è un problema di risposta a tutto il tessuto della piccola media impresa, del tessuto del commercio, anche di tutti coloro che sono nella loro piccola dimensione le architravi di questa economia italiana. È ovvio che l'attenzione in questi giorni è andata alle grandi banche, alle grandi imprese, all'Italia, insomma, però dobbiamo occuparci e preoccuparci di quel motore invisibile della nostra economia che molte altre nazioni ci invidiano, che è fatto di piccole e medie imprese che esportano, del cui destino singolo sembra non importare nulla a nessuno qualche volta, ma che proprio in questa circostanza nella quale si riparla di aiuti di Stato bisogna anche preoccuparci di coloro tantissimi che gli aiuti di Stato non ne hanno mai avuti, che sono andati avanti con le loro gambe, che non hanno fatto degli errori, e non vorremmo che in questa circostanza così eccezionale venissero danneggiati semplicemente per il fatto di aver fatto e bene il proprio mestiere. Certamente, grazie. Rocco da Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la possibilità che date di poter intervenire. Ecco, la mia domanda è molto semplice, volevo chiedere, insomma, aiutando queste grandi banche, queste grandi industrie, diciamo, finalmente passeremo dalla parte, non so come Stato, diciamo, dalla parte dei creditori, avremo degli utili finalmente. Ecco, volevo sapere chi vigilerà su tutto quanto questo, quando le banche ci dovranno, diciamo, restituire a noi Stato i soldi in generale che vengono prestati e a che tasso di interesse? Ecco, solo questa piccola domanda. Ma giustamente, la ringrazio molto, giustamente si tratta di prestiti che lo Stato fa o di interventi nel capitale che lo Stato fa, la speranza è che questi prestiti possano essere restituiti con gli interessi, ovviamente se si entra nel capitale, che possono essere anche degli investimenti positivi, perché con le quotazioni a livelli bassi come sono adesso la prospettiva è soprattutto quella di un rialzo. Ma su questo Ferruccio De Bortoli. Ma innanzitutto non è detto che ci possa essere un vantaggio per lo Stato e per i cittadini, anzi è più probabile che questo vantaggio non ci sia. Noi speriamo naturalmente che interventi di questo tipo non facciano salire il debito pubblico, che già a livelli assolutamente insopportabili, gli altri paesi se lo possono permettere, noi purtroppo no. E bisogna anche dire che noi abbiamo una storia di interventi dello Stato nell'economia che è tutt'altro che positiva. L'IRI negli anni 30 doveva durare 6 mesi, 1 anno, poi alla fine è durato tantissimo, quindi devo dire che non vorremmo tornare ai tempi in cui si facevano i panettoni di Stato, quello sarebbe una mortificazione per l'economia italiana. Io spero che si tratti di interventi assolutamente eccezionali e poi si ritorni a ristabilire delle regole di mercato corrette. E ovviamente nei momenti eccezionali ci possono essere misure eccezionali, ma il problema che si pone adesso è come sarà la normalità che speriamo di raggiungere il più presto possibile. Con la speranza che la storia possa insegnare, che anche la cronaca possa insegnare, che i fatti di queste ultime settimane possono essere appunto un insegnamento per non fare gli errori del passato, errori che sono stati forse molto forti, per esempio nel 29, quando si cercò di contrastare la crisi con degli strumenti che sono rivelati fallimentari, che hanno portato alla depressione. Adesso si stanno usando altri strumenti, ma la lezione del passato deve essere sempre presente. È quello che si vuol fare anche con questo libro con cui abbiamo iniziato, La grande crisi, domande e risposte. È un instant book del Sole 24 Ore, sarà domani in edicola insieme al quotidiano con un sovrapprezzo di 4,90 euro. Ne abbiamo parlato oggi con il direttore Ferruccio De Bortoli, che ringrazio soprattutto quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per lunedì.